dogma, la morte, chissà che c'è dietro, cosa c'è? Chissà se sarò davvero al cospetto di San Pietro, che aprendo un libro scorrerà tra le righe e deciderà i miei eterni in un campo di fiamme, in un campo di spighe. E allora vi chiedo quale sia il giusto comportamento, se si cancella un peccato dicendo soltanto mi pento, se soffrendo veramente si arriva sul serio a capire quanto vale una vita oppure quanto vale morire. La terra trema, gente muore, ma lo share aumenta, gli sciacalli non sono quelli che il tuo ti gira ancora, il dolore di molti è la ricchezza di pochi, e il dolore stavolta è così forte che non basta più un occhi. Ok, chi siamo noi per poter giudicare? È un'azione irrazionale o il gesto che fa incazzare? Gli animi immaturi sono dei soliti moralisti che puntano il dito contro i soliti poveri cristi. Poi loro che nella vita non hanno subito più niente, che vivono secondo valori che hanno soltanto immesse, e d'altronde l'immoralità è tutta soggettiva, mentre la voglia di mettersi mostre tutta primitiva. La vita ci viene donata così all'improvviso, e nonostante i brutti tempi ci vuole sempre un sorriso stampato sulla faccia a coprire i problemi per l'egoismo di persone con teorie che non stanno in piedi. La vita è formata da tanti piccoli momenti che viviamo in tanti modi, ma soprattutto che volano e non possiamo più sapere per quanto altro tempo non si faranno vedere. C'è chi aspetta la morte e chi non vuole più morire, è una questione di gusti tutta da scoprire, e come una gita e tutti devono andare, si pare si capisce che deve finire. Si vive per morire, sì, e si morirebbe per vivere, indipendentemente se qualcuno lassù possa decidere, sì. La vita agiata è sempre quella più desiderata, è mentre quella elaborata come al solito è la più scartata. Ok, è vero, frutto di constatazioni, la vita di un uomo non varrà mai più di due azioni. Il denaro ormai viene prima della gente, e fuori questo clima c'è, però nessuno lo sente. Sicuramente se a tutti va bene c'è un motivo, non tutti sono scesi in basso e non hanno provato dal vivo la morte civile. Amico, ormai sei spacciato, e con questa affermazione in molti la spugna hanno gettato. Un'altra domanda spunta, ora voglio capire di cosa sia più egoistico tra il vivere e il morire. Ehi, se vivere una vita brutta per accontentare la gente, oppure morire da solo e non sentire più niente. Più niente. La gente, la sua faccia è molto più seria. Cerchi di capire chi vive e chi ha vissuto della miseria. Perché la gente comune ha tante vie per scappare, ma chi non ha nulla ha soltanto pochi vicoli da imboccare. La vita è formata da tanti piccoli momenti che viviamo in tanti modi, ma soprattutto indifferenti a chi che volano, e noi non possiamo sapere per quanto altro tempo non si faranno rivedere. C'è chi aspetta la morte e chi non vuole morire, è una questione di gusti, questione tutta da scoprire, come una gita che è bello, tutti devono andare, si impara e si capisce che deve terminare.